Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie molte per la cortese attenzione e grazie a Cristiano Valli per la regia. Una piccola novità nei nostri programmi, ci rivediamo fra 2 settimane, la prima settimana dopo Pasqua. La settimana dopo Pasqua. Deve essere il 6 aprile o qualcosa del genere. Insomma, fra due salti. Buona giornata. Faccio la foto.